Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City. Questa sera parliamo di Holley, una delle startup finaliste di BioApper, il programma promosso da Novartis e Fondazione Cariplo a sostegno dei giovani impegnati a creare startup nel mondo delle scienze della vita e del biomedicale. Holley, fondata da tre giovani ricercatori romani a giugno 2016, ha preso forma all'interno del Tecnopolo Tiburtino, quindi dell'incubatore regionale del BIC Lazio, e sempre l'anno scorso ha vinto il premio come miglior startup del Lazio, quindi premio al primo anno di vita. Di che cosa parliamo? Di una piattaforma che permette alle strutture sanitarie di stampare, evidentemente all'interno della stessa struttura sanitaria, dei tutori ortopedici in 3D in sostituzione di quei gessi a cui siamo già abituati. Ci facciamo spiegare tutto da Gabriel Maria Scozzarro, cofondatore di Holley. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, diciamo che io mi sono fatto male al polso e ho bisogno di uno di questi tutori, ma sono fortunato e vado in uno degli ospedali che ha adottato il vostro sistema. Che cosa succede a quel punto? Come funziona? Allora, dopo che il medico avrà diagnosticato un trauma, che può essere una frattura o una lesione ai legamenti, l'arto del paziente interessato verrà scansionato tridimensionalmente utilizzando il nostro scanner 3D innovativo, che è totalmente automatizzato e riesce a acquisire geometrie e misure in meno di 30 secondi. Quindi è una procedura semplice e praticamente immediata e sicuramente indolore. Dopodiché il medico sul proprio computer, tramite il nostro software di modellazione 3D, avrà il modello dell'arto del paziente, e in maniera automatica il software lo guiderà alla costruzione del tutore a seconda delle esigenze cliniche o personali del paziente. Quindi potrà modificarne spessori, dimensioni, potrà aggiungere o togliere una microforatura che permetterà poi successivamente al paziente di traspirare, quindi non ci saranno problematiche a livello di... Ecco, quindi perché questo oggetto viene progettato al computer e c'è una stampante 3D di tipo, diciamo, commerciale, non è una stampante 3D con delle specificità particolari, che è in grado di stampare questo tutore. Dicevamo, è molto più leggero, per esempio, no? Ed è in gran parte vuoto questo tutore. Esatto, i tutori realizzati attraverso il nostro sistema sono leggeri e traspiranti, in quanto presentano una microforatura che permette il passaggio sia di aria che di acqua. Quindi il paziente potrà continuare a farsi la doccia o a bagnarlo o a farsi il bagno. Ecco, dite microforatura, ma in realtà questi buchi si vedono benissimo, no? Sembra come se fosse una rete, ma molto rigida. Esattamente, all'apparenza. Microforatura, perché poi il medico può andare a decidere in funzione alle esigenze del... Le dimensioni di questa rete, diciamo, queste maglie, certo. Esattamente così. E il materiale è un materiale plastico ultra resistente, quindi ne basta poco per ottenere una rigidità e un'immobilizzazione eccellenti. Quindi pesa in media 100-150 grammi. Quindi, praticamente nulla, insomma, da portare addosso. E non crea problemi di vestibilità, quindi il paziente potrà continuare a indossare le camicie, le giacche oppure altri tipi di indumenti. E non presenta soprattutto le classiche complicazioni che invece il gesso... Lavarsi, il prurito, il problema è che uno non si riesce a lavare per un mese quel braccio, e se è un braccio va bene perché il resto si riesce a lavare, altrimenti è ancora peggio. Esattamente, ma anche da un punto di vista clinico non presenta controindicazioni, come il gesso invece tradizionale sì. Non causiamo nessun tipo di irritazione a livello cutaneo e non causiamo nessuna complicazione che viene chiamata sindrome compartimentale, che è una complicanza che può portare anche in estremi casi alla perdita dell'arto. Va bene, ok, questo è veramente per fortuna qualcosa di estremamente raro. Invece una cosa che mi sembra interessante segnalare è che è tutto made in Italy. Esattamente, tutto il nostro sistema, lo scanner 3D, il software e la stampante sono stati progettati e vengono realizzati in Italia, in collaborazione anche con altre imprese, naturalmente, altre imprese italiane. Senta, su cosa state lavorando adesso? Diamo per consolidata questa questione dei tutori? Esatto, noi attualmente stiamo lavorando su tre fronti. Stiamo collaborando con l'INAIL per integrare all'interno dell'istituto la nostra soluzione. Stiamo lavorando sullo sviluppo di nuove tipologie di tutori per altri tipi di arto, quindi parliamo di bustini ortopedici, caschetti oppure per tutori per il piede o le dita. E come terzo fronte stiamo cercando di applicare in collaborazione con i dipartimenti di veterinaria di alcune università la nostra soluzione al mondo veterinario, soprattutto per i grandi animali come il cavallo. Costi, perché uno dice, ma questo tutore quanto costa la sanità alla fine, di più o di meno del gesso? Allora, i nostri tutori costano molto di meno del gesso, in quanto un chilo di materiale plastico che noi utilizziamo costa all'incirca 30 euro e appunto, come dicevamo prima, il tutore ne pesa 100, media 100, 150 quindi con, grammi. Quindi con 3 euro sostanzialmente o 5 euro si fa un tutore, lei dice. Esattamente. Certo. E poi soprattutto può essere smaltito nei rifiuti compostabili oppure può seguire il ciclo di riciclo della plastica. Va bene, allora in bocca al lupo e grazie per intanto Gabriel Maria Scozzarro. Grazie a voi, grazie mille. Anche per questa sera è tutto, buon fine settimana, ci risentiamo lunedì.